N-I-O Neo Nona Avanguardia. Inutile che sbuffi se chiudono i cancelli. Io so già che ti perdi se tolgono i cartelli. Inutile comprare un trofeo ai perdenti. La scena, poi tutti belli, la vita, tutti incoerenti. Ah, il mio flow batte e corre forte in prima base. Tu cambia shampoo che la vodka non mi piace. Ma chi vi scrive i testi ha studiato dalla base. Ma non da prima base, da prima elementare, dai. Ma questa è musica o gara del più coglione. Sogno il video, ogni canzone, la gara del più fattone. Tu hai un 10% di testo inventato e il 90% già pronto e stampato. Non forzare l'arte se non esce fuori facile. Sotterri la carriera a nome d'oro sulla lapide. Questa Neo ormai fuori dalle capsule. Ho capito, questo gioco ha uno schema un po' a piramide. E stavolta rinuncio come Francesco. In questo pezzo non metto il ritornello. Dai, come fai? Ti è rimasto solo quello. Eppure senza la luce accendo il mio concerto. Dai! Rubo te la tua major, vendo tutto al compro oro. Il contante me lo prendo e pago i tecnici del suono. Questo è il secolo 21, un mondo tutto nuovo. Poi per chi dà il culo facile, il primo sopra il trono. Il mio ideale è sempre quello, spingere dal basso e mandarvi così in fondo dove io sarò più nato. E su una bella vista, un panorama mozzafiato. Peccato siamo arrivati già all'ultimo piano. Avere il mondo in mano è il sogno americano. Che poi del resto è un sogno e rimane tale. E se rimarrà uguale mi sembrerà normale comprare ciò che si sogna, un Maserati da Modena. Tutti bendati e coltelli sopra il bersaglio. Lanciati a caso colpiscono al primo sbaglio. E questo è il ritmo di chi ci ha dato un taglio. Non avanguardia, correggimi se sbaglio. N.E.O. cambia il gioco sopra il tavolo. Questo non è pop. N.E.O. questo non è pop. Scusa, come hai detto che si chiama? N.E.O. N.E.O. E stavolta rinuncio come Francesco. E stavolta rinuncio come Franceschi. E stavolta rinuncio come Francesco. Ho promesso che nel pezzo non metto il ritornello. N.E.O. N.E.O. N.E.O. Non avanguardia. No, finisce più sta base. Vabbè, dai, basta. No, davvero, basta, chiudi. A posto.